Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buonasera e buona Pasqua in anticipo da Sebastiano Barisoni, puntata speciale oggi di Focus Economia, terminerà anche oggi alle 18 come lungo tutta la settimana, vista la tragedia del terremoto abruzzese. Puntata speciale anche perché oggi col mercato chiuso abbiamo una puntata che non si occuperà di cronaca e men che meno di cronaca borsistica. Cercheremo di fare il punto su elementi assolutamente di attualità, ma magari con il respiro che si può avere in questi casi quando non si deve narrare la cronaca minuto per minuto. E mi riferisco a due temi: da un lato le opportunità che possono nascere da questa crisi per le imprese, e quindi anche vedere la crisi come un elemento in cui si può mettere mano ad alcuni modelli produttivi, ad alcuni modelli aziendali, esplorare nuovi mercati, insomma un insieme di elementi che potremmo riassumere in un detto fare di necessità virtù, visto che la crisi non l'abbiamo certo cercata noi, è arrivata anche dall'esterno per buona parte e in stragrande maggioranza non ha visto una responsabilità diretta del nostro sistema produttivo industriale, per cui bisogna per forza di cose fare di necessità virtù. Dall'altro lato invece ci occuperemo di un tema che spesso tocchiamo, e cioè il merito. Per merito in questo caso oggi lo affronteremo sull'aspetto che poi porta purtroppo alla cosiddetta fuga dei cervelli italiani formati in Italia, quindi la cui formazione è a carico nostro della collettività, che però perché non trovano lavoro, perché non vedono riconosciuta la loro professionalità, perché i criteri meritocratici diciamo non sono applicati, vanno all'estero, e quindi con il doppio elemento negativo che da un lato non lavorano nel nostro paese, ma dall'altro noi formiamo delle persone che poi vanno a fare concorrenza di fatto al sistema paese all'estero. Partiamo allora con il primo tema, e quindi come dalla crisi possono nascere delle opportunità. Ne abbiamo parlato a lungo alcuni giorni fa con Edoardo Garrone, che è da un lato presidente della ERG, e quindi gruppo petrolifero, dall'altro, scusate, vicepresidente di Confindustria, con la delega all'organizzazione e al marketing associativo. Gli abbiamo chiesto, vista la situazione difficile, quali opportunità possono comunque nascere. Da qualunque crisi nella storia sono nate anche forti riprese. Naturalmente, probabilmente, il sistema delle imprese si dovrà ancora una volta, come dire, innovare, no? Quindi noi comunque siamo in generale fiduciosi. Fiduciosi perché dalle ultime previsioni del Centro Studi sembra che ci potrebbero essere un'inversione in tendenza verso fine anno. Secondo, perché naturalmente con mille difficoltà, però il sistema delle imprese italiane è un sistema sano, che ha saputo dimostrare di essere competitivo, ha saputo dimostrare di sapere vincere, come dire, le sfide della competitività. Ho letto recentemente alcune sue dichiarazioni in cui lei diceva: attenzione a non buttare, se posso sintetizzare, via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, le banche hanno commesso degli errori, ma il processo che hanno costruito le banche in questo periodo è un percorso virtuoso. Può aiutarci a capire? Intanto è dimostrato che le banche italiane hanno da tempo innescato un processo virtuoso, si sono internazionalizzate più che in passato, negli ultimi anni moltissimo, naturalmente hanno fatto per questo degli investimenti, hanno preso impegni, però si sono, come dire, riempite molto meno di altre banche dei cosiddetti titoli tossici, quindi dal punto di vista della solidità stanno meglio di banche di altri paesi, e quindi abbiamo comunque un sistema bancario che, non dimentichiamo, poi svolge in Italia un servizio all'economia dei territori molto importante, perché noi siamo abituati a parlare delle grandi banche, ma le banche regionali che stanno sul territorio, che conoscono il territorio e accompagnano in qualche modo gli imprenditori per gli investimenti, svolgono un servizio all'economia fondamentale. Non mi pare che negli ultimi mesi ci siano stati particolari problemi alle banche. C'è stata una restrizione del credito, è una selezione soprattutto del credito, ma quello è un problema diverso, E devo dire che con, come dire, le proposte di Confindustria confidiamo che le piccole imprese possano ritornare ad avere, come dire, un accesso al credito migliore di quanto non sia successo negli scorsi mesi. Da quello che è la sua esperienza personale, appunto sempre nel ruolo di vicepresidente di Confindustria, gli associati hanno ancora problemi o qualcosa si sta muovendo dopo il fondo di garanzia chiesto con forza dalle piccole e medie imprese, 1,6 miliardi messo a disposizione dal governo, e comunque anche una borsa che, insomma, leggermente nelle ultime 2 settimane ha preso a crescere quanto a quotazione e capitalizzazione di borsa dei titoli bancari. Per quanto riguarda segnali, credo che sia un po' presto per avere sufficienti elementi per dire sì, la decisione è stata presa dal governo, adesso bisogna definire molto bene gli strumenti applicativi della misura, quindi credo che sia un po' prematuro come dire, fare già delle previsioni su questo tema. Per quanto riguarda i mercati finanziari, come dire, che sembra stiano dando, come dire, segnali di ripresa, anche lì è presto per dirlo. Questo non riguarda tanto le imprese, le piccole imprese italiane, riguarda le imprese quotate in borsa, ma soprattutto credo che sia un segnale positivo per i risparmiatori. La grande paura che ha creato la crisi, come dire, di consumo, quindi della domanda, è nata anche dal fatto che le famiglie si sono ritrovate, come dire, non solo spaventate per il rischio crisi del sistema bancario, ma anche perché molti avevano i risparmi investiti in borsa e si sono visti ridurre, come dire, della metà, se non peggio, il valore dei loro risparmi. Visto che lei è noto anche per avere opinioni non necessariamente dentro il coro e comunque assolutamente autonome, noi parliamo da tempo, da mesi ormai, del ruolo delle banche, di quanto sbagliato sia stato per come atteggiamento delle banche che non avevano grossi problemi, chiudere i rubinetti, rendere difficile l'accesso al credito o il mantenimento di linee di credito con le imprese, perché un po', diciamo, un atteggiamento quasi masochista, visto che poi sono le stesse imprese che servono alle banche per creare volume d'affari. Però un'autocritica da imprenditore o ai suoi associati lei la farebbe? Nel senso che abbiamo visto che le banche rispondono spesso: beh, ma i tassi di investimento non è che siano aumentati, gli imprenditori non ce li chiedono i soldi. Altri fanno notare che in questo periodo, proprio vista la crisi, è il caso di aumentare la dimensione di capitalizzazione, casomai fondendosi. Cioè, non c'è nulla che l'imprenditore possa rimproverarsi come atteggiamento in questo periodo? Ma guardi, più che rimproverare l'atteggiamento, tenga conto che in un periodo in cui molti imprenditori in vari settori sono visti in pochi mesi crollare il mercato di riferimento, naturalmente, soprattutto anche imprenditori che negli ultimi anni hanno investito e hanno investito bene, quindi il paradosso di questa crisi è che rischiano di essere, come dire, fatte fuori dal mercato imprese sane, che magari poi non, come dire, vanno in crisi liquidità e quindi chiudono per colpe non loro. Dall'altra parte c'è un dibattito, un'autocritica è stata fatta anche al nostro interno. L'impresa italiana non chiede, come dire, denari o sostegno per le aziende decotte, chiede sostegno soprattutto per poter continuare a sostenere, a fare gli investimenti per essere competitivi, quindi per le aziende sane. In questa situazione molte aziende sane si sono viste chiudere la porta in faccia dalle banche, ma questo non significa dare la responsabilità alle banche di non fare il loro mestiere. Le banche sono aziende come altre, no? E quindi devono valutare i loro rischi. Il problema è che prima le banche hanno dovuto ridurre, come dire, i prestiti alle imprese perché è andato in crisi l'interbancario, e quindi l'hanno dovuto fare perché non avevano veramente la liquidità da immettere nel sistema. Poi quando si è garantito l'interbancario probabilmente hanno fatto comunque una selezione del credito su parametri, come dire, forse di emergenza, non verificati a fondo. Quindi Diciamo che c'è stato un periodo di grande preoccupazione e confusione, soprattutto è stata una lotta contro il tempo. Io credo che adesso, con le misure prese, incrociando le dita, col fatto che fattori veramente straordinari poi non sono successi, perché alcuni paesi, le banche o istituti finanziari li hanno salvati davvero, e quindi non ci sono stati effetti domino sul sistema, come dire, bancario e finanziario, credo che sia il momento in cui si possa ritornare ognuno, banca e impresa, a fare il proprio mestiere. Dal vicepresidente di Confindustria al presidente della ERG, già lei ha ricordato la sua posizione sulle fonti rinnovabili. Voi avete festeggiato l'anno scorso, se non ricordo male, i 70 anni di ERG, che sta per Edoardo Raffinerie Garrone, perché fu il nonno Edoardo, poi papà Riccardo, adesso lei come presidente, a fondare la ERG. Sì. Mi corregga se sbaglio, perché non sono il biografo ufficiale, però insomma. E tra l'altro la cosa che a me interessa molto è capire come avete fatto, da un certo punto di vista, a prevedere in tempi non sospetti. Fu suo fratello Alessandro, forse, che il petrolio sarebbe sceso fino a 50-60 dollari, quando JP Morgan, ma anche Goldman Sachs, davano petrolio a 200-180 dollari. E questo vuol dire anche... No, quei tempi in realtà aveva colpito, scusi se la interrompo, prego. Aveva colpito la come dire, dichiarazione di mio fratello Alessandro, che disse: noi prevediamo, secondo noi il prezzo del petrolio sarà 70 dollari. Sì, e tutti dicevano, se non ricordo male, non 50, disse 70. Sì, 70, però insomma, visto che le stime erano 200, sì, c'è chi diceva 180, 200, chi oltre. E quindi questa domanda porta chiaramente all'appendice di che previsione fa lei. Ma l'altra cosa che mi interessa è che cosa ne pensa dei temi che si sono discussi anche recentemente del pacchetto energetico europeo 20-20-20. Sì. Le dico perché? Perché lei ci fece, quando era presidente dei giovani imprenditori, ci organizzò un convegno su questo nel 2001. Sì. Anche Radio 24 era presente, lo ricordiamo molto bene. Ma soprattutto, più recentemente, a fine del 2008, la Confindustria su questo ha preso una posizione molto dura, appoggiata dal governo italiano. Infatti noi abbiamo messo una specie di veto a quel pacchetto in quella forma. Alcuni hanno detto: l'industria italiana perde un'occasione, perché le fonti rinnovabili, il 20-20-20 vuol dire 20% in meno di emissioni, 20% in più di fonti rinnovabili e 20% in meno di consumi. Ma le fonti rinnovabili sono anche un settore industriale, non sono solo un costo. Il Kyoto 2 è anche un'opportunità di sviluppare nuove industrie. Se restiamo indietro, finisce un po' come è successo nella chimica o in alcuni campi dell'information technology, in cui poi diventiamo semplicemente compratori. Allora, previsione del prezzo del petrolio. Noi dicevamo un anno e mezzo fa che il prezzo giusto doveva essere 70. Oggi sosteniamo che il prezzo giusto potrà essere 70 quando ci sarà una ripresa economica a livello mondiale. Nel 2009 probabilmente il prezzo del petrolio starà intorno ai 50 dollari come oggi, per due motivi. Uno, perché per il 2009 è tutto da dimostrare che entro la fine del 2009 ci possa essere un'inversione in tendenza dell'economia. Secondo, perché c'è i paesi produttori, soprattutto i paesi dell'area del Medio Oriente, sono molto impegnati in dollari e soprattutto in investimenti legati agli Stati Uniti e all'economia americana. E allora hanno in qualche modo l'interesse a che l'economia americana riparta, e può ripartire anche grazie a un prezzo del petrolio contenuto, proprio perché per far crescere il valore dei loro asset e dei loro investimenti negli Stati Uniti. E quindi questo fa pensare che sarà intorno ai 50 dollari per il 2009, poi se ci sarà la ripresa a partire dal 2010, poi bisogna vedere quale sarà, come dire, la forza della ripresa. Il passo di questo, il petrolio, sì, il petrolio dovrebbe pian pianino salire per arrivare magari alla fine del 2010 o 2011 intorno a una media, intorno ai 70 dollari, che è il prezzo giusto se incrociamo la reale domanda con l'offerta, la capacità di produzione, il sistema logistico, il sistema di raffinazione mondiale. Per quello che riguarda invece il 20-20-20, ossia... Il 20-20-20, Confindustria ha lavorato molto sul governo perché avesse una posizione contraria a così come era stato strutturato il piano europeo, e per una semplice ragione, questo avrebbe penalizzato moltissimo l'industria italiana. Dall'altra parte la posizione di Confindustria sul 20-20-20 e anche sul nucleare è stata molto chiara, perché tutte le analisi ci dicono che la quota del 20% di rinnovabile per un paese come l'Italia sarà difficilmente raggiungibile nei tempi previsti, e comunque potrebbe essere raggiungibile a costo di interventi pubblici non sostenibili. Le dico, il vento in Italia, le aree dove si possono sviluppare l'eolico sono molto limitate, e comunque non abbiamo sufficienti ore vento da poter giustificare investimenti nell'eolico che si ripagano molto più velocemente in altri paesi tipo la Francia. E il fotovoltaico per esempio invece? Il fotovoltaico, anche quello è molto limitato oggi, perché intanto quando oggi si parla di fotovoltaico che ha una validità industriale, parliamo di aree comunque molto limitate del paese, molto estese, dove c'è una presenza di sole molto forte per un periodo lungo dell'anno, e non è che ne abbiamo tantissime. Quindi sicuramente questi sono investimenti importanti che possono dare opportunità di attività di impresa, anche di filiera importante, e sicuramente possono essere un volano, come dire, per un segmento dell'economia fondamentale per il paese, però è tutto da costruire. Se lei pensa che nell'eolico non abbiamo un'azienda che sia una che produce impianti eolici in Italia, abbiamo fatto sviluppo e investimenti, le grandi aziende che producono gli impianti eolici non sono in Italia. Allora non si è fatta in passato una politica di incentivi alla filiera produttiva, su cui sarebbe il caso, su cui alcune regioni peraltro si stanno muovendo. Era questa la nostra preoccupazione, cioè corretto che l'Italia non venga penalizzata in quanto economia con una forte componente manifatturiera da un pacchetto 20-20-20 che diventava appunto un pacchetto anticompetitivo per le nostre imprese, però non vorremmo che questa diventasse la scusa poi per continuare a non investire in un settore come quello delle fonti alternative di energia, perché sennò un domani ci toccherà comprare, come già facciamo, pannelli e quant'altro sempre all'estero. È quello che stiamo facendo finora. Esatto. Proprio perché le politiche italiane sulle rinnovabili non incentivano la filiera produttiva, incentivano solo la produzione. Quindi se io gestisco un campo eolico, per parlare di eolico, e ho fatto l'investimento, ho gli incentivi sulla produzione di energia elettrica, ma non esistono incentivi su chi produce le varie componenti degli impianti. No, ma è chiarissimo poi sul ragionamento, finché gli incentivi sono solo a chi produce energia elettrica con fonti alternative, ma non a chi produce, diciamo, gli strumenti per produrre questa energia, quindi pannelli, pale, quello che volete, non decollerà mai una filiera industriale in questo settore in Italia, o comunque avrà più difficoltà. In una battuta, per concludere, ringraziandola anche per questa lunga intervista, secondo lei il sistema produttivo del paese da questa crisi uscirà più debole, o, viste anche delle pulizie e così, una selezione quasi darwiniana, più forte? Bella domanda. Mi pagano per questo. Da imprenditore devo dirla più forte, perché comunque noi gli imprenditori hanno il dovere di pensare che, come dire, il mondo va avanti, e quindi l'impresa comunque sa rinnovarsi, sa essere competitiva e sa anche cambiare pelle, ma stare sempre sui mercati che sono dinamici e, come dire, mutevoli. La risposta è dire sì, sarà più forte, ma qual è il prezzo che pagheremo come paese? Credo che questo dipenderà molto, moltissimo, dalla capacità di questo paese, dell'Italia, di saper approfittare i momenti di difficoltà per mettere un po' a posto, in ordine, come dire, il solaio, nel senso che questo è un paese ormai, voglio dire, uno dei temi del dibattito politico attuale, no? Sono il funzionamento dello Stato, del governo, si riparla di riforme istituzionali, di federalismo che va compiuto e quant'altro. Adesso io credo che sono troppi anni che se ne parla, ma come dire, non si fa abbastanza per poter far funzionare un paese che è paralizzato. Concludo con una battuta che forse racchiude il mio pensiero. In questi giorni il governo è riuscito con le regioni a trovare l'intesa sul piano casa, e da quanto leggo sui giornali, perché come dire non è la mia materia, quindi non voglio nemmeno dare giudizi sul contenuto, questo dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni del governo e nelle stime fatte, una spinta, come dire, all'economia. Io mi aspetterei la stessa, come dire, determinazione per un piano industria, ma non di sostegno alle imprese, per accelerare gli investimenti pronti industriali bloccati da varie pastoie burocratiche. Solo il mio gruppo in Sicilia ha investimenti bloccati per pastoie industriali, per pastoie burocratiche, per 1,5 miliardi di euro. Questa quindi l'intervista con Edoardo Garrone, ripeto, presidente della ERG e vicepresidente di Confindustria, con la delega all'organizzazione e al marketing associativa. Di nuovo con lo speciale di Focus Economia, puntata appunto in cui ci occupiamo di temi più di ragionamento, vista anche la chiusura dei mercati oggi, e parliamo, come annunciato adesso, di un tema che spesso ricorre nel dibattito, poi viene abbandonato, poi viene ripreso in maniera più o meno polemica. In realtà il tema è serio, è serissimo, e va sotto il nome della cosiddetta fuga dei cervelli, ossia come l'Italia non riesca a non solo attirare cervelli dall'estero, ma a tenersi i cervelli suoi. Ne parliamo perché un collega del 24, quindi questo ci fa ancora più piacere, Sergio Nava, ha da poco scritto un libro che si chiama La fuga dei talenti, storie di professionisti che l'Italia si è lasciata scappare, casa editrice San Paolo. Buonasera intanto, Sergio Nava. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Come sempre, quando parliamo di libri portiamo anche alcuni passaggi che a noi sembrano particolarmente evocativi. Il tema è chiaro ai più: questo è un paese che non riesce a tenersi le persone che forma, quindi con un doppio errore da un lato, un doppio danno da un lato, che non te le tieni, quindi vanno a lavorare per paesi concorrenti, diciamolo così, ma dall'altro anche il fatto che sono persone che tu hai formato, e quindi i costi della formazione ce li becchiamo noi, e gli effetti positivi, i vantaggi, le ricadute positive se li beccano altri paesi, gli Stati Uniti, ma non solo. Ascoltiamo questo passaggio del libro appunto di Sergio Nava, La fuga dei talenti, in cui si ricordano con poche cifre quale sia, diciamo, il livello del cosiddetto paese bloccato. La fotografia forse migliore e più impietosa l'ha realizzata la Banca d'Italia, secondo cui il 53% degli italiani resta imprigionato, suo malgrado, nel ceto in cui è nato. Solo il 31,7% riesce a salire, mentre il 15,3% addirittura scende di classe. Che paradosso! Gli anni della flessibilità selvaggia hanno prodotto una società rigida, annota il quotidiano La Repubblica, citando le mille delusioni dei giovani laureati, molti dei quali competenti e dall'ottima formazione, costretti a spiegare ai propri genitori che no, non basta studiare e impegnarsi per riuscire. Il rapporto ISFOL di fine 2007 è rivelatore. Il miglior ufficio di collocamento in Italia resta la propria famiglia, intesa in senso allargato, la rete dei parenti, degli amici, dei colleghi, dei conoscenti. quella rete che con il tam tam, informazioni riservate, le dritte giuste e infine la raccomandazione, può farti vincere la gara più combattuta di questi tempi, la gara per il posto di lavoro. Il curriculum, il colloquio, le lingue straniere, tutte carte importanti da giocarsi, ma mai decisive come la telefonata giusta alla persona giusta. Il 31,1% degli intervistati dichiara di aver trovato lavoro attraverso amici, parenti e conoscenti. Quasi quanto il dato combinato di chi ha sostenuto un concorso pubblico, 19,9%, o si è autocandidato a una posizione, 15,5%. Ma che, nel terzo millennio, la rete relazionale continui a rappresentare il miglior canale di collocamento, rappresenta un vero scandalo. Ne usciamo come un paese sottosviluppato, almeno nelle sue strutture sociali e meritocratiche. Questa quindi è la situazione. Come avete capito, in questo caso non si parla solo della fuga, ma, o meglio, si parla delle cause, Sergio Nava, di questa fuga. Perché, se ho ben capito, ricordare che la Banca d'Italia, secondo la Banca d'Italia, il 53% degli italiani resta imprigionato nel ceto in cui è nato e solo il 31% riesce a salire, mentre addirittura un 15% scende di classe. E poi ancora altri passaggi che abbiamo sentito, il rapporto ISFOL, per cui il migliore ufficio di collocamento in Italia resta la famiglia, spiega, se ho ben capito, il motivo per cui alcuni se ne vanno. Diciamo che il ragionamento di base da cui sono partito poi per scrivere questo libro è che l'Italia, anche a causa di tutto questo, è un paese in declino, e come il declino è certificato da prima addirittura che la crisi scoppiasse. Già il nostro paese aveva un PIL inferiore alla media europea ben prima di questa crisi. Questo declino, secondo me, non è solamente determinato da certi fattori, è determinato anche dal fatto che noi non sappiamo tenerci le nostre menti migliori, i nostri talenti, le nostre forze più fresche, se vogliamo. Non è una fuga che riguarda solamente i ricercatori, come spesso si tende un po' a semplificare, è una fuga che riguarda tutte le categorie. Qui ho raccolto ricercatori, professori universitari, artisti, uomini di impresa, architetti, ingegneri, medici, giornalisti, anche funzionari. Quindi diciamo che il problema è molto semplice. Il giovane italiano spesso purtroppo non trova canali di selezione meritocratici, spesso non trova stipendi o gradi di responsabilità commisurati alla sua effettiva capacità e competenza. Quando anche entra, diciamo, nel circolo, spesso non riesce ad avanzare se non attraverso meccanismi relazionali, e quindi cerca di emigrare in paesi dove la meritocrazia è qualcosa di effettivamente più reale, più presente. E poi alla fine un po' tutti questi giovani lo dicono, si trovano all'estero con stipendi commisurati alla loro capacità, alla loro competenza, possono dare il meglio di sé, non devono affidarsi a meccanismi relazionali per andare avanti, per fare carriera, e quindi alla fine ci restano. C'è un'iniziativa in campo, un'iniziativa bipartisan, si chiama Controesodo. È una bella iniziativa perché propone uno scudo fiscale per chi rientra, però quando è stata presentata poco tempo fa a Milano, la maggior parte di chi scriveva via web diceva: beh sì, a me fa piacere rientrare in Italia magari risparmiando grazie a uno scudo fiscale qualche centinaia di euro, però c'è un problema proprio di ambiente di lavoro in Italia che non mi permette di esprimermi al meglio. Allora, io sul declino personalmente sono meno d'accordo con te, nel senso che è una retorica che già altre volte abbiamo sentito, soprattutto applicata alla parte produttiva del paese. Mi sembra che anche alla luce di questa crisi economica l'Italia, diciamo, non abbia molto da imparare, parlo della struttura produttiva e economica, da altri paesi, perché noi perlomeno alcuni errori non li abbiamo fatti, e aver avuto una manifattura importante si è rivelato fondamentale rispetto ad altri paesi. Se invece ci riferiamo a una difficoltà che ha l'Italia ormai da decenni nel crescere come la media europea, questa è sotto gli occhi di tutti: noi cresciamo di meno, abbiamo una produttività più bassa, ma parlerei più di difficoltà che di declino. Altra cosa invece dire che poi, insomma, noi facciamo più fatica degli altri, anche perché se ci facciamo del male da soli, se ci facciamo del male, diciamo, facendo scappare le persone con più voglia, più formate, più appetibili all'estero, è ovvio che ci tocca fare fatica doppia, e delle volte non riusciamo nemmeno con la fatica doppia a pareggiare il danno che ci siamo fatti da soli. C'è un tema però che già altre volte abbiamo affrontato con, penso a Roger Abravanel e altre persone, e mi riferisco al tema del merito, perché tu ricordavi nei passaggi che abbiamo fatto sentire quanto difficile sia muoversi nella scala sociale dentro l'Italia, e da un lato anche quanto la famiglia sia, diciamo, l'unico, il luogo migliore di collocamento, lo dice l'ISFOL, e quindi questo già apre il tema a elementi non meritocratici ma relazionali, di conoscenza, l'amico di, il figlio di. E quanto pesa una meritocrazia mancata, diciamo, nella fuga dei cervelli? Pesa moltissimo, perché la maggior parte poi di questi ragazzi alla fine proprio questo rinfaccia all'Italia. Dice: l'Italia è stata madre con me fino a un certo punto e poi è diventata matrigna, mi ha abbandonato. Poi ovviamente tutto ciò assume contorni diversi nei settori che abbiamo analizzato, cioè nel settore della ricerca ovviamente spesso, o dell'università spesso, si parla di professori che coltivano la propria cerchia e che alla fine lasciano all'esterno tutti gli altri e si fa solo una grande fila. Nel settore della musica c'è il vuoto, il deserto totale, il musicista di talento fatica tantissimo per affermarsi. Nel settore delle imprese anche c'è difficoltà, perché spesso le piccole e medie imprese, con una gestione anche molto familiare, tendono a escludere il laureato, tendono a vederlo un po' come una minaccia, e con un forte tessuto di piccole imprese ovviamente questo ha dei riflessi importanti anche sul nostro tessuto occupazionale. Sembra alla fine semplificare, se vogliamo, però la mancanza di meritocrazia è il minimo comune denominatore di tutte queste storie. Sul declino effettivamente su questo si possono avere pareri discordanti, però praticamente tutti questi giovani vedono l'Italia in declino. Poi magari è un'impressione, però la loro impressione, che io condivido, è questa. Sì, resta il fatto che come elementi competitivi sono meno d'accordo, ma restiamo sul tema più del merito che di altro. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei che tu ci raccontassi anche dei casi concreti, e cioè i casi che sono presenti nel libro: ricercatori, medici, ingegneri, architetti, addirittura anche dei giornalisti, e poi capire invece un altro aspetto, cioè sulla meritocrazia, che a mio avviso è il vero problema nella selezione, che danni poi ci facciamo da soli con un ambiente meno meritocratico. Ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia. Vi ricordo che stiamo parlando di un libro, come ogni tanto facciamo in giorni in cui la borsa è chiusa, il libro di Sergio Nava, La fuga dei talenti, storia di professionisti che l'Italia si è lasciata scappare. I tratti comuni, tu presenti molti casi, ricercatori, dicevo prima, medici, artisti, professori universitari, tutto, ingegneri, architetti, tutte persone che sono dovute andare all'estero non perché avessero trovato un lavoro migliore rispetto a quello italiano, ma semplicemente perché in Italia non c'era il lavoro o era di qualità molto bassa, mentre all'estero veniva riconosciuta la loro formazione, la loro qualità nella formazione. Qual è il comune denominatore di questi profili, visto che non possiamo raccontarli tutti? Un mio caro amico mi ha detto che il minimo comune denominatore di tutti questi profili è l'umiltà. Sono persone che si sono fatte da sole, gradino dopo gradino, tassello dopo tassello. Persone che sono andate all'estero, non è stata una passeggiata. Si sono dovuti in primo luogo ambientare, hanno dovuto lavorare sodo, ma hanno trovato comunque tutti o quasi tutti un certo grado di successo. Quindi sono persone alla fine comunque con una marcia in più, secondo me. Che qui avrebbero potuto dare qualcosa. C'è anche chi ha fatto delle scoperte. Giovanna Tinetti, che è la storia che apre il libro, ha scoperto acqua e metano nello spazio lavorando all'estero, quindi, e ha portato, se vogliamo, anche il nome dell'Italia nella comunità scientifica. È stata anche citata più volte dalla BBC. Sono persone che avrebbero veramente potuto dare tanto anche a questo paese, che, come dici tu, ci siamo fatti scappare e in molti casi abbiamo abbandonato. Questo forse è ancora più grave. Chi ha provato a rientrare spesso si è imbattuto in un muro di gomma e ha semplicemente dovuto accettare di dover rimanere dov'era. La storia che più ti ha impressionato, chiaro che sono tutte storie tra virgolette di un fallimento in patria e una rinascita all'estero. Ora io una cosa la voglio dire, però avendo io lavorato all'estero prima di rientrare in Italia, non sempre si va all'estero perché in Italia non si è apprezzati. Delle volte una buona offerta in Italia ne ha una ancora migliore all'estero, delle volte uno, a mio avviso anche correttamente, vuole andare all'estero per farsi un'esperienza all'estero, non perché in Italia non ci sia nulla. Detto questo, la storia che più ti ha toccato, che ritieni più emblematica? Ci sono, come dici tu, delle storie, c'è una frase che mi ha colpito molto, infatti anche in copertina, al di là della storia, che è quella di Oscar Bianchi, è un musicista e un compositore, ha 34 anni e vive a New York. E lui ha una storia particolare perché dovette accettare un voto di laurea al conservatorio basso perché la commissione d'esame voleva fare uno sgarro al suo precedente maestro. Però questo ragazzo, questo giovane, ha così tanto talento che poi è finito alla Columbia University, compone musiche per mezzo mondo, soprattutto in Europa e Stati Uniti. La Neue Zürcher Zeitung, che è uno dei più prestigiosi quotidiani svizzeri, addirittura ha scritto di questo compositore di talento, sentiremo parlare ancora. Lui mi ha detto una frase molto bella. Lui dice: il nostro è un sistema interamente basato sullo scambio di potere, un sistema dal quale i giovani sono tagliati fuori perché non hanno nulla da offrire al di fuori del proprio talento. È una frase che ho citato perché secondo me fotografa bene l'Italia. C'è anche una storia secondo me molto carina, anche questa emblematica del sistema Italia, è quella di Marco Fantini, che ora fa il funzionario alla Commissione Europea e che nel 99 seguì l'avanzare della Germania verso l'euro, diciamo l'ingresso della Germania nell'euro. Ebbene, Fantini fu di fatto escluso dal maggiore ente pubblico dell'epoca perché gli risposero: noi assumiamo solo chi conosciamo. Fu bocciato a un concorso in Rai, fu bocciato a un concorso di una cassa di risparmio provinciale, fu assunto prima dalla Barclays e poi finì in Commissione Europea a ricoprire anche posizioni importanti. Questo secondo me è abbastanza emblematico dell'Italia, cioè il non saper selezionare a volte le sue teste migliori, perché ci sono altri canali. Sì, c'è chi dice che in realtà se il problema fosse solo quello, cioè il problema fosse solo che si seleziona in base a una cooptazione, come si chiama in gergo, cioè fa entrare chi viene, potrebbe essere anche una forma di selezione, cioè ti fidi di quella persona perché ti viene presentata da Tizio o da Caio e tu ti fidi della professionalità di Tizio e Caio. Io in maniera laica non ci trovo nulla di diverso, che magari un curriculum può essere più asettico e darti meno informazioni. Il problema però è che i principi e i criteri con cui devi selezionare devono essere quelli del merito. Ora, se la persona X ti dà una garanzia su questo, si può anche prendere in considerazione, ma deve essere basato sulla garanzia, non un favore a un amico, uno scambio di interessi, uno scambio, diciamo, elettorale. Infatti c'è un concetto che poi alla fine ricorre dappertutto e ricorre anche sul blog che poi ho aperto. Quando parliamo di raccomandazione, allora la raccomandazione esiste anche negli Stati Uniti, esiste anche in Inghilterra. La segnalazione, diciamo. E come no? Il problema aver fatto certe scuole, aver fatto esatto. Certi. Sì, certo. Però il problema è molto semplice, cioè chi raccomanda negli Stati Uniti o in Inghilterra ci mette la faccia. Cioè, se tu, Sebastiano Barisoni, raccomandi qualcuno per un certo posto di lavoro, lo fai pubblicamente, apertamente, ci metti la tua faccia. Se poi quello non si rivela all'altezza, ce ne va anche la tua reputazione. Se invece si rivela all'altezza, a volte puoi anche prendere avere un beneficio economico dalla tua stessa azienda. In Italia tutti concordano sul fatto che questo avviene, come dice Oscar Bianchi, molto spesso sulla base di uno scambio di potere. E questa è la reale differenza. Cioè, il motivo non è che il valore e il merito della persona, ma è fare un favore a chi te lo segnala o per averlo in futuro. Sentiamo quest'ultimo passaggio del libro, appunto la fuga dei talenti, in cui si cita anche la cosiddetta irrilevanza sociale dei nostri giovani, quindi i talenti purtroppo che scappano sono quelli più giovani. Il passaggio. La metastasi purtroppo non corrode solo i tessuti e gli organi del nostro apparato pubblico, anche il cosiddetto privato ne soffre. Secondo una ricerca di Manager Italia, pubblicata nell'agosto del 2008 e condotta su una platea di 1200 dirigenti, il merito e l'impegno non servono a fare carriera nel nostro paese. Per salire la scala aziendale occorre trovarsi nella cordata giusta, 93%, essere per l'appunto raccomandato, 87%, o trovarsi nelle grazie del capo, 79%. Situazione diametralmente opposta all'estero, dove il merito e i risultati conseguiti pesano per il 98% nell'avanzamento di carriera. Va da sé che il 53% dei manager che lavorano in Italia pensi ricorrentemente a un futuro lavorativo fuori dai patri confini. L'irrilevanza sociale dei nostri giovani è certificata anche dal demografo Massimo Livi Bacci. Nel suo ultimo saggio, Livi Bacci mette il dito sulla piaga della mancata scalata gerarchica dei più giovani. Nel 1911, un terzo della popolazione economicamente attiva aveva meno di 30 anni, contro il 13% attuale. Agli inizi del Novecento avevano meno di 30 anni il 10% dei medici, il 19% degli ingegneri e degli architetti, il 21% degli avvocati, il 22% del clero. Nel 1999 erano under 30 solo il 2,9% dei medici, il 9,1% di ingegneri e architetti, il 7,4% degli avvocati e il 4,2% dei sacerdoti. I giovani italiani sono stati scippati del loro futuro, denuncia il saggio. Ma quasi non se ne rendono conto. La società si è addormentata, denuncia Livi Bacci, e temo che l'anestetico sia stato somministrato in dosi troppo massicce. Questi dati del tuo libro, presenti appunto nel rapporto di Livi Bacci, ma non solo, per non chiudere in maniera troppo negativa, c'è un elemento, insomma, nello scrivere questo libro si ragionava che qualche speranza te l'ha dato, insomma, che un elemento positivo, a dire vabbè, almeno su questo ci siamo. Sì, l'elemento è molto semplice. Mi sono reso conto di quanta ricchezza l'Italia abbia nei purtroppo pochi giovani rimasti. La demografia, insomma, è una scienza abbastanza esatta e ce lo dice. Però c'è un'elite che possiamo coltivare, che possiamo anche valorizzare e che, se ben incanalata dalle istituzioni, dalla politica, dal sistema Italia, potrebbe veramente trasformare questo paese, potrebbe rilanciarlo. E il messaggio cerco di dare anche con questo libro. Siamo in un momento di crisi, anche generalizzato, siamo in un momento difficile, ma tra le tante ricette anticrisi, perché non cominciare seriamente a pensare di cambiare il sistema di selezione, di meritocrazia di questo paese e tenerci questa elite che è anche rappresentata in questo libro? E alla fine è il messaggio che cerco di lanciare, oltre anche a un messaggio di presa di coscienza generazionale, un messaggio ai ventenni e trentenni di oggi: capite che possiamo cambiare le regole del gioco, che un'altra Italia è possibile, siete la prima generazione che sta girando l'Europa, che vede come funziona anche in altri paesi, e allora cercate di cambiare le cose, siete la prima generazione, potete farlo, non è detto che questa cappa che vi sovrasta, che vi impedisce di emergere, debba per forza esistere. Grazie a Sergio Nava, La fuga dei talenti, storia di professionisti che l'Italia si è lasciata scappare, di editrice San Paolo. Da Sebastiano Berisoni a tutti voi in ascolto un ringraziamento, un auguro di buona Pasqua, chiaramente Pasquetta, e un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione.